in primo piano. Lunedì 9 maggio, i giornali aprono sul tema magistratura con le nuove parole che hanno suscitato polemica del premier Berlusconi. Berlusconi e Bossi divisi sui PM, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica il Colle e Bossi difendono i giudici. Per La Stampa, guerra civile contro di me, il premier attacca i PM. Il Messaggero, no alla rottura della legalità, questo è il monito di Napolitano. L'apertura del Sole 24 Ore, fisco, semplificazione a metà, si analizza il decreto per lo sviluppo, tra l'altro ricordo che da oggi e per un mese al Sole 24 Ore è allegato, se lo chiedete in edicola, l'inchiesta L'Italia che non cresce, la trovate sui nodi dell'Italia che non cresce, la cura, la trovate appunto in edicola. Poi vedremo altre aperture di giornali più avanti dopo la pubblicità. Intanto io voglio partire da una segnalazione, un paio di segnalazioni, se ce la facciamo prima della pubblicità. La prima è questa, la trovo sulla Stampa a pagina 5, a firma Guido Ruotolo: il giallo di Gheddafi sparito da 9 giorni. La domanda che è il sottofondo di questo articolo è questa: ma se Gheddafi fosse morto? Sono 9 giorni che è scomparso, il 30 aprile, proprio dal giorno del raid della NATO nel quale è stata bombardata una casa dove si trovava ed è stato dato l'annuncio della morte di Saif al-Arab, il suo figlio, della moglie di costui e di 3 nipotini del Rais, Muhammad, Hannibal e Aisha. E Guido Ruotolo dice: ma che fine ha fatto Gheddafi? È vivo? O è rimasto ucciso o gravemente ferito anche lui in quel raid? Perché non se ne sa niente. Tra l'altro, dopo quel raid, alcuni testimoni eccellenti, racconta Ruotolo, sono stati portati nella camera ardente, ma i corpi del figlio, della moglie del figlio, quindi della nuora e dei nipoti, non sono stati visti da nessuno, erano avvolti in teli bianchi. Anche il vescovo Martinelli ha detto: il cadavere era troppo sfigurato, quello del figlio. E dunque ecco miti, leggende. Racconta Guido Ruotolo per esempio del precedente della morte della figlia adottiva Hana, rimasta uccisa nei bombardamenti di Reagan nell'86, ma secondo una leggenda in realtà mai morta, secondo una leggenda è in giro per il mondo in questo momento e ha lasciato tracce di sé. Insomma, c'è l'idea del mistero e anche dei complotti sulla vicenda di Gheddafi. Il giallo di Gheddafi, sparito da 9 giorni, le voci dalla capitale, forse rimasto ferito o addirittura ucciso nei raid. Così firma Guido Ruotolo sulla Stampa, questo retroscena pagina 5, Guido Ruotolo che di Libia, segnalo io, se ne intende parecchio. Con che cosa i giornali cosa propongono per quel che riguarda la campagna elettorale e le amministrative? Il solito cliché. Con il premier Berlusconi che alza il tono contro la magistratura, dai PM guerra civile contro di me, questo è l'articolo che trovate sia sul giornale sia sul Corriere della Sera, un po' ovunque. Le critiche del presidente della Camera Fini sono parole inaccettabili, c'è anche qualche battuta di Berlusconi con Marco Galluzzo sul Corriere, ieri era Olbia. Ha risposto anche a Napolitano che ha sollevato qualche dubbio per la nomina dei nuovi sottosegretari. Fino ad ora sono stato zitto, non c'è alcun motivo di fare polemica, ha detto Berlusconi. Noi comunque abbiamo i numeri in Parlamento, siamo forti, se ci dovrà essere un voto alle Camere non c'è alcun problema. Se vogliono votare, benissimo, facciano quello che vogliono. E poi c'è anche questo tema, siccome Bossi ha dato ragione a Napolitano su questo tema e anche sui magistrati, Bossi ha detto non sono molto d'accordo su questa definizione di dire i magistrati sono come un cancro. Berlusconi a questa domanda che ne pensa che Bossi dà ragione al Colle esita un po', accenna un sorriso e poi dice: e che vi devo dire, che ha fatto bene, benissimo. Perché? Perché ieri Bossi ancora in un convegno, Bossi invece era a Bologna mentre Berlusconi era a Olbia, Bossi non segue il cavaliere sui PM, non si può dire che siano un cancro. Insomma, un altro tema sul quale si sono un po' smarcati dopo le recenti polemiche sul tema Libia, tanto che Repubblica mette in prima pagina un retroscena di Francesco Bei, quello che sarebbe il timore di Berlusconi: il cavaliere si voti o la maggioranza, ma quello che teme Berlusconi secondo l'inviato di Repubblica è un patto tra Bossi e il Colle. Ecco il timore segreto del cavaliere. Troppe coincidenze. l'ennesima volta che Bossi dà ragione a Napolitano anche sulla magistratura, e dunque circola il fantasma di un possibile patto segreto tra il capo dello Stato e il senatore, un'intesa che porterebbe Bossi, con la benedizione del Colle, a sganciarsi dal premier nel caso le elezioni milanesi andassero male per Letizia Moratti, e consegnando la fine della legislatura a un governo guidato da Roberto Maroni o Giulio Tremonti. Questa è il retroscena politico secondo Repubblica, cioè un Bossi che starebbe lanciando dei messaggi per smarcarsi in vista del risultato delle elezioni a Milano in particolare, per vedere come va. C'è da dire che il clima, certo, è l'ultima settimana prima del voto, quindi si inasprirà su questi temi. Tra l'altro oggi Berlusconi sarà in tribunale a Milano per il quarto lunedì consecutivo, credo. Con il Corriere annuncia che probabilmente ci sarà, parlerà sicuramente, secondo il retroscena sarà uno show ancora con i suoi sostenitori. Il Corriere fa sapere a pagina 3, tra l'altro, che Berlusconi si troverà davanti tre maxi poster voluti dal presidente del tribunale Livia Pomodoro. Sono tre magistrati uccisi, per la verità sono due magistrati, Emilio Alessandrini e Guido Galli, e invece l'avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata assassinato su mandato del banchiere Sindona nel 79, che sono ora tre gigantografie che campeggiano al tribunale di Milano, perché oggi è il giorno della memoria per le vittime del terrorismo, e quest'anno in particolare dedicata ai magistrati uccisi dai terroristi. E quindi Luigi Ferrarella fa notare che oggi Berlusconi, quando andrà in tribunale, si troverà, questa sicuramente scena che anche dal punto di vista simbolico è importante, queste tre gigantografie che sono riprodotte in foto sul Corriere della Sera a pagina 3. C'è anche il ministro Matteoli, intervistato dal Messaggero, che dice: la campagna elettorale, è vero, c'è, ma ora si sta esagerando. È ovvio che i toni si alzino, ma in democrazia chi governa deve avere un'opposizione che abbia delle proposte, non sia unita dall'unico assunto: caro Berlusconi, levati tu, che arriviamo noi. Insomma, Matteoli che dice la vera colpa è anche di una opposizione che critica e basta Berlusconi. Berlusconi che dice: Matteoli sottolinea l'esistenza di una piccola parte della magistratura politicizzata che dal 94 non ha perso occasione per mettere in discussione la legittimità della maggioranza. Sta di fatto che, insomma, siamo sempre su questo tema. Viene intervistato anche il vicepresidente del CSM Vietti dalla Stampa, pagina 11, lo intervista Ugo Magri. Non è un caso, dice, che quest'anno il giorno della memoria è dedicato ai magistrati uccisi. E ai magistrati, Vietti dice, di fronte alle parole del premier: non bisogna farsi trascinare nelle polemiche, rispondere continuando a fare il proprio dovere, proseguire nell'opera di autoriforma senza sottrarsi a un confronto costruttivo per una vera riforma del sistema giustizia. E Vietti che dice: la magistratura comunque non può essere vissuta né presentata come un intralcio fastidioso. Vabbè, questo il tema giustizia che si ripropone nella politica e che verrà rilanciato, statene certi, anche in questa settimana. Registro invece quello che il Corriere della Sera fa, ed è anche la prima pagina del giornale, torna sulla vicenda che è esplosa un qualche giorno fa, che coinvolgerebbe, anche coinvolge politicamente come articoli, Massimo D'Alema. La vicenda è legata all'inchiesta su Finmeccanica, perché un qualche giorno fa è venuta fuori la notizia di un'inchiesta a Roma sulle dichiarazioni di un imprenditore, Pio Piccini, arrestato per il crack Eutelia, che avrebbe raccontato ai magistrati che una persona, tale Morichini, gli avrebbe chiesto 5% degli incassi di un appalto di Finmeccanica, se fosse andata in porto la gestione delle intercettazioni in Italia, per girare poi alcuni di questi di queste tangenti, presunte tangenti, anche alla Fondazione Italiani Europei legata a Massimo D'Alema. Il giornale titola in prima pagina: se i giornali coprono il compagno D'Alema, un'inchiesta sulle tangenti tocca il giro del presidente del PD, ma Repubblica la ignora, il Corriere la pubblica quasi di nascosto e i TG tacciono. E tra l'altro in prima pagina c'è la foto celebre di D'Alema che cade dal suo gommone qualche estate fa in un goffo tentativo di manovra in mare. Il Corriere in realtà oggi intervista chi? Proprio Morichini, l'uomo che è molto vicino a D'Alema, 66 anni, ex numero uno di Nas Italia, amico da 20 anni del leader D'Alema, a cui vendette pure la celeberrima barca Icarus, che dice: non sono il Greganti 2. Questa vicenda intanto viene raggiunto a Granada, vacanze rovinate, e dice, fa questa premessa: ho tre figli e mi morissero tutti se quella che vi dico non è la verità. Verrà fuori alla fine che non ci sono fatture false, anche se lui è indagato per fatturazioni false, semplicemente perché non esistono. Ho 66 anni, non ho mai lavorato con le tangenti. Entrata la Guardia di Finanza di recente da me, mi hanno trattato come fossi uno spacciatore di droga. Hanno preso solo la documentazione della fondazione di D'Alema, una mira precisa. E poi respinge tutte le accuse. Guardi, non sapeva, il presidente non sapeva nemmeno chi fossero quelli che davano i contributi alla fondazione. D'Alema non sapeva assolutamente nulla. Ero io a avvicinare gli imprenditori, decine, convincendoli a versare dei contributi al massimo di 20.000 euro. Riguardo all'accusa di essere il nuovo primo Greganti, vale a dire il comunista che ai tempi di Mani Pulite non confessò mai di aver preso tangenti, io non sono Greganti, questa è una barzelletta, anzi una tragedia. Insomma, parla per la prima volta il Corriere della Sera Vincenzo Morichini su questa vicenda. La politica è tutta qui. C'è da registrare invece molto di cronaca e di economia, dopo il traffico vedremo anche. Beh, di cronaca intanto voglio accennare questa vicenda che trovate ovunque su uno sbarco che poteva rivelarsi una tragedia, Lampedusa, e che non è stata una tragedia perché? Perché c'è stata una catena umana da parte degli abitanti di Lampedusa che hanno salvato così 500 naufraghi, persone di tutti i tipi, guardie di finanza, militari, soccorritori, guardacoste, carabinieri, le mute dei sommozzatori, i volontari rifugiati, perfino una giornalista dell'ADN Cronos che poi ha raccontato come ha salvato un bimbo di neonato di 4 mesi, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, tutti semplici cittadini lampedusani si sono gettati in mare per questo barcone con 500 naufraghi che era incagliato negli scogli, tra l'altro ricevendo anche il plauso del capo dello Stato Napolitano. E ci sono tanti racconti su tutti i giornali di quella che è stata una tragedia evitata. Sono profughi. Mantica, il sottosegretario agli esteri intervistato dalla Stampa, dice: attendiamocene potenzialmente 50.000, sono tutti profughi che vengono in genere da scene di guerra, scenari di guerra, e dunque non sono non si possono respingere, molto presumibilmente. Tra l'altro l'Unità su questo fa un racconto esclusivo a pagina 14 e 15. Ecco chi è l'uomo che in Libia gestisce questa ondata di profughi. Si chiama Zuhair Adam. L'Italia lo conosce bene perché è venuto qui al Ministero dell'Interno a istruirsi per partecipare a corsi di formazione sulle tecniche di pattugliamento, però in pochi mesi dopo la guerra ha decisamente cambiato mestiere ed è lui, secondo l'Unità, Zuhair Adam, alto ufficiale della Marina Libica, l'uomo che su incarico di Gheddafi ora conduce la guerra dei barconi e gestisce le partenze verso l'Italia. Respingeva i profughi per conto dell'Italia, ora li spinge in mare. Questa è la storia che racconta pagina 14 e 15 l'Unità. Sole 24 Ore che cosa ha fatto nell'edizione del lunedì? Ha preso una serie di esperti, ha esaminato punto per punto il decreto per lo sviluppo, dando i voti a ogni elemento del decreto dello sviluppo, il voto complessivo alle 18 disposizioni di snellimento delle regole burocratiche viene un 6+. La semplificazione merita 6+ in pagella, questo a pagina 3. Le misure che sono state approvate dagli esperti del Sole con maggiore entusiasmo sono quella dell'addio all'obbligo di compilare la scheda carburante se si paga con carte di credito, bancomat o prepagate. Il voto è 7,5, così come 7,5 alla nuova chance per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, mentre sono sicuramente da rivedere altre proposte come bocciate con un 5-, per esempio i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del fisco degli enti previdenziali, oppure il 5, il galateo per evitare l'invasività dei controlli, no? Insomma, una disamina di tutto il decreto sviluppo, le valutazioni degli esperti, il risultato è un 6+. Segnalo anche dal Sole 24 Ore un monitoraggio fatto sul territorio, sui tribunali italiani, per quel che riguarda i fallimenti, che sono sempre un indice della situazione del paese, di a che punto è la crisi. Ne parlano a pagina 5 Andrea Maria Candidi, Cristiano Dell'Osta e Giovanni Parente. Fallimenti in calo, ma resta l'emergenza. La crisi delle imprese continua a lasciare tracce profonde in tribunale, anche se l'avvio del 2011 fa registrare non proprio un positivo passo indietro, ma una frenata. Di certo alcuni dati significativi. I pignoramenti immobiliari nei primi 4 mesi del 2011 sono diminuiti del 12%, i ricorsi per decreto ingiuntivo dell'11%, le richieste di esecuzioni immobiliari del 2,5%, in leggero calo anche le istanze di fallimento dell'1%. Insomma, una frenata che fa presagire a qualcosa di positivo. Riguardo all'economia voglio segnalare però un retroscena molto piccante, interessante, che farà anche discutere, lo firma Paolo Madron, che ora è l'animatore di Lettera 43 e trova spazio sul Corriere della Sera, pagina 9, il Premier e la tentazione della carta Geronzi. Geronzi, che si chiede Madron che ne sarà di Geronzi dopo il siluramento dalle generali. Ebbene, questo retroscena prevede che intanto racconta Madron che c'è stato un incontro con Berlusconi, l'ipotesi anche di un rientro e addirittura, e questo è lo scenario piccante che farà discutere, Berlusconi, nei giorni in cui la tensione con Tremonti era alle stelle, ha pensato di sostituire lo stesso Tremonti con Geronzi. Con lui al Ministero dell'Economia il Cavaliere otterrebbe in un sol colpo più di un risultato, si riapproprierebbe delle risorse finanziarie che Tremonti gli nega, senza le quali non riesce a impostare quel ciclo espansivo che vorrebbe, si troverebbe un forziere come la Cassa Depositi e Prestiti pronta a intervenire nelle operazioni di sistema e insomma resterebbe l'incognita della reazione della Lega, molto legata a Tremonti. Ma questo retroscena, chissà se è un colpo di teatro, se è un retroscena un po' fantomatico, se è un retroscena invece verosimile. Berlusconi che penserebbe, o avrebbe addirittura pensato, per Paolo Madron, nei momenti di tensione con Tremonti, di sostituirlo al Ministero dell'Economia con Geronzi. Oh, che cosa c'è ancora di segnalazione dai giornali? Le do un pochino. Intanto c'è ancora qualcosa di Bin Laden e la vicenda. L'unica cosa che vi segnalo è il racconto della moglie. La moglie di Bin Laden trovata nel covo a pagina 5 del secolo XIX. Viene raccontato lo sfogo di Amal, la moglie più giovane, la firma di Barbara Schiavulli dal Pakistan. Secondo il racconto della moglie, Osama Bin Laden, catturato dai Navy SEALs americani, calmo, disarmato, avrebbe detto: Dio benedica i musulmani, prima che lo trascinassero fuori e lo uccidessero sotto gli occhi della primogenita di 10 anni, Safia, nata il giorno dopo l'11 settembre del 2001. Questo è il racconto della moglie. E infine, che dire? Beh, intanto, per parlare di sport, bisogna parlare di sport, bisogna parlare di calcio. Sentite come si sorride. Oh, peccato, perché è successo tutto sabato quello che contava, no? Pare che quello che contava, che contasse, è successo tutto sabato. Beh, intanto la voglio raccontare con una vicissitudine di un giocatore che i milanisti hanno comunque sempre nel cuore e gli avversari no, perché era un tipo un po' incandescente. Sebastiano Rossi, ex portiere, ve lo ricordate, ha dato un pugno in faccia a un carabiniere durante una movimentata serata, il sabato sera, proprio mentre il Milan vinceva lo scudetto. Ha dato un pugno in faccia a un carabiniere, è stato arrestato, verrà processato oggi per direttissima. Sebastiano Rossi, uno che già ne ha combinate in passato anche da calciatore. Rossi prende a pugni un carabiniere, arrestato l'ex portiere del Milan, anche su Repubblica, un'intera pagina sulla Gazzetta. Ci sono anche delle foto, perché c'era un fotografo, un Sebastiano Rossi con la barba un po' sfatta. Prende a pugni un maresciallo. Vabbè, insomma, l'unico milanista che sabato ha avuto una serata un po' così, un po' diversa, movimentata, arrestato. Per il resto, che dire, la Gazzetta dello Sport da 2 o 3 giorni è rossonera. Oggi il titolo è: c'è Kakà nella festa del Milan, forse torna Kakà. Stiamo già pensando al futuro, chi lo sa. Intanto, insomma, assistiamo alla battaglia per la Champions e per non retrocedere nelle ultime due giornate. Ora il giornale radio.